A bordo campo di Dario Ricci. Parliamo di calcio oggi a bordo campo. Quo vadis football? Questo l'argomento sviluppato in una tavola rotonda ospitata in questi giorni dall'Agorà dello Sport, iniziativa voluta a Parma da una serie di associazioni, di enti, a partire dal CSI, poi dalla Federcalcio, dalla Lega Calcio. Insomma, il football italiano si è seduto intorno al tavolo per provare a leggere nel proprio presente e nel proprio futuro. Nostro ospite Giampaolo Montali, coordinatore delle risorse umane della Roma, poi ex membro del CDA della Juventus e soprattutto anche grande allenatore della nostra pallavolo. Benvenuto, signor Montali, a bordo campo. Grazie mille, buongiorno a voi. Allora, Giampaolo Montali, perché nostro ospite? Beh, innanzitutto ci stuzzicava parecchio l'idea di poter parlare con lei, che è un po' un ponte del calcio rispetto a un altro grande sport come è la pallavolo, e che dalla pallavolo di fatto arriva, lo ricordiamo, grande allenatore di molte squadre di club, della nazionale argento olimpico ad Atene 2004. Innanzitutto ci spieghi come mai questo salto, ormai già da qualche tempo in verità? Una scelta, credo che arriva un momento in cui bisogna avere la forza e il coraggio di cambiare. Ho ricevuto un'offerta che era nel momento del 2005 della Juventus, che era in una fase di ristrutturazione generale. Mi aveva interessato, intrigato molto la sfida, volevo confrontarmi in un ambiente nuovo, ricominciare da capo. Era una sfida, dopo tanti anni nella pallavolo ho voluto provare a cambiare, vedere se ero in grado di poterlo fare anche in un altro sport. Quindi è stata proprio una scelta mia personale. È chiaro che senza la proposta della Juventus probabilmente non sarei mai mi sarebbe venuto in mente di misurarmi con il mondo del calcio, però insomma, dato che è arrivata, ne sono molto grato di questa cosa, e devo dire che mi sta piacendo e mi piace molto. Ho trovato nuovi stimoli, nuova linfa, che credo che sia la cosa più importante per uno che faccia questo mestiere. E poi la cosa che mi ha sempre condotto nel mio lavoro e nella mia professione è la curiosità. Sono uno molto curioso e incuriosiva il fatto di provarmi a misurare con un altro sport. Mondo di lupi, però, si dice sempre, quello del calcio, per chi non affonda le proprie radici nel fango e negli scarpini da gioco. Ricordiamo un altro grande allenatore arrivato proprio dalla pallavolo nel mondo del calcio, Julio Velasco, prima all'Inter, poi alla Lazio, con risultati sicuramente alterni. È proprio così, insomma, mondo che è difficile da capire e penetrare per chi da quel mondo non arriva? No, non è così. Le persone sono diverse, diversi sono gli stili, diversi sono i comportamenti, diversi sono le competenze, e quindi ogni persona ha la sua storia e la sua personalità, quindi ci sono persone che si possono integrare in modo migliore, altre magari meno. La cosa che è importante è, quando ti approcci a uno sport diverso come il tuo, avere l'umiltà di entrare in punta di piedi, cercare di capire e di portare le tue competenze, se queste possono essere utili. Quindi è solo una questione, a mio avviso, di stili e di comportamenti. Ecco, ma c'è qualche legge non scritta del calcio che si è ritrovato improvvisamente di fronte e che le ha richiesto qualche minuto in più per essere decodificata? Ma guardi, tutti mi dicevano sulla cosa che tutti pensavano di farmi passare quest'idea, no? Di convincermi a non andare al mondo del calcio. Sui 10 persone che mi chiamavano, 9,5, 9,5 mi dicevano di non andare, impossibile, non ti troverai bene, non funziona, non accettano quelli che vengono da altre discipline con una formazione diversa. E più mi dicevano questo, invece io più avevo l'effetto contrario, insomma, volevo proprio invece andarci e prendere come una sfida e dimostrare che, secondo me, se le persone sono intelligenti, se hanno competenza e misura, si può lavorare. Io credo nel gioco di squadra. Tutto quello che ho vinto nella mia carriera l'ho vinto attraverso il gioco di squadra sul campo, il gioco di squadra fuori, nella squadra, quella che io chiamo la squadra invisibile. Quindi credo che una delle cose importanti sia proprio quella dei comportamenti. Ho trovato sicuramente alcune cose molto particolari, però devo dire che il mondo del calcio mi ha ricevuto con grande attenzione e con un occhio molto particolare, però mi ha agevolato in tante cose e sono stato molto fortunato. Prima di essere arrivato alla Juventus, società molto importante, con un'organizzazione molto precisa, e poi adesso sono stato molto fortunato di essere arrivato alla Roma con un presidente che ha assolutamente ha cercato di utilizzare quelle che erano le mie conoscenze, le mie competenze, mettere a disposizione dell'organizzazione. Quindi devo dire che in questo senso sono stato agevolato. Poi tutte queste chiacchiere sugli uomini dei sport, uomini del calcio, che sono persone di un certo tipo, molto chiuse, molto settali, io per esempio per quello che riguarda me non le ho trovate. Beh, insomma, come avete capito, e mi rivolgo agli ascoltatori, Giampaolo Montali non è figura e uomo che ama i luoghi comuni, anche perché altrimenti non sarebbe passato dalla Juventus alla Roma, no? Anche quello, altro luogo comune, non si riesce a vestire quella casacca se prima si è passati per Torino. Ma guarda, questa è una cosa che succede anche in altre discipline, in altri sport. Io ho allenato l'Olympiakos di Atene, il Panathinaikos mi voleva, se non avessi avuto un'offerta dall'Italia, proprio da Roma, sarei andato. Credo che la professione è unica, cioè è chiaro che poi ci sono delle persone che legano il proprio nome alla maglia per una vita, una carriera intera, e allora diventa difficile. È chiaro che sono delle cose che sono difficili, insomma, da poter fare. Difficile passare dalla Lazio alla Roma, difficile passare o viceversa, difficile passare forse dal Torino alla Juventus, però quando fai il professionista credo che una cosa più importante sia la competenza, la professionalità. Con queste qualità, con queste doti si può fare, a mio avviso, qualunque cosa, l'importante è essere chiari da subito, dall'inizio. A Roma lei è visto anche come una persona molto vicina alla squadra, un innovatore, no, nel mondo del calcio. Le cronache ci raccontano di muri degli spogliatoi che ha battuto per favorire il contatto tra i titolari e chi invece del gruppo dei titolari non è presente, degli assalti vani che molti anchorman del radio romane le fanno per averla al microfono, e lei gentilmente ma fermamente declina. Insomma, è entrato in un ambiente con le sue regole, ma anche a suo modo, no? Ho detto, una questione di stile, di comportamenti. Io ho portato la mia conoscenza, la mia esperienza, il mio know-how non solamente come allenatore e come manager, perché poi in realtà io nelle mie società facevo il manager all'inglese, mi occupavo di tutto, definizione di ruoli, competenze, gestione del budget, quindi ho sempre fatto allenatore in modo un po' atipico. Sono docente alla Bocconi, all'università, gestione di leadership e la gestione delle risorse umane con metodo del coaching, quindi ho una preparazione un po' diversa, insomma, da quella che è il classico ruolo. E poi il mio ruolo è proprio quello di stare, io lavoro nell'area sportiva, sono un direttore dell'area sportiva, mi occupo proprio di gestire proprio il core business della società, che poi in realtà non dimentichiamoci che le società di calcio, anche quelle quotate in borsa, hanno tanti interessi, ma alla fine poi l'unica cosa che conta sono i risultati della squadra, quindi della prima squadra. Tutto quello che ho cercato di portare con delle innovazioni l'ho portato, dicevo prima, sempre con molta misura. Poi è chiaro che queste cose qua escono all'esterno, e meno male che ne sono uscite poche, perché altrimenti continuerebbe a parlare di altre cose. Però bisogna fare sempre con misura e secondo me senza perdere di vista quello che è l'unico obiettivo, cioè la squadra, il team, tutto finalizzato affinché quelle 11 persone che scendono in campo la domenica possano andare in campo e dimostrare tutto il loro valore, tutta la loro eccellenza. Ma Roma è pronta ad accogliere queste piccole grandi rivoluzioni? Roma in particolare ha i suoi re, e Francesco Totti è il primo, i suoi reucci, la sua corte, il suo ambiente con le sue norme. Non ha paura di una crisi di rigetto prima o poi? No, per quale motivo dovrei aver paura? Quando i rapporti sono imperati sulla professionalità, sulla stima reciproca, non ci sono preoccupazioni. Poi voglio dire che la Roma non è che improvvisamente da quest'anno sia diventata una top squadra, improvvisamente. La Roma sono già diversi anni che è il top del campionato, ha vinto Coppa Italia, è arrivata a parte i secondi posti dietro l'Inter negli ultimi due volte negli ultimi quattro campionati. È una squadra che ha una storia, un telaio ben preciso, non è una meteora assolutamente, quindi è una squadra che continuerà a essere sempre di vertice. È chiaro che ha dentro, all'interno della sua storia, dei giocatori che sono veramente delle icone, ma lo sono perché hanno fatto grandi cose per la squadra, quindi sono persone assolutamente a cui la società e i tifosi della Roma devono gratitudine illimitata e incondizionata, quindi non sarà mai un problema questa cosa qua, anzi è sicuramente un valore aggiunto da utilizzare, da valorizzare sempre di più anche in prospettiva futura, quando magari questi giocatori e di Totti fra 4 anni, 5, quando noi speriamo più tardi che possa farlo, smetteranno di giocare, quindi saranno risorse da utilizzare all'interno della società. Da uomo di sport arrivato al calcio, che cosa proprio non le piace di questo football italiano? Del resto la domanda da cui siamo partiti, signor Montagli, è proprio Quo Vadis Football? Ma guardi, devo dire sinceramente, io sono uno che quando comincia un'avventura, una delle ultime cose che fa è lamentarsi, non mi lamento mai. Cerco sempre di lavorare cercando di trovare due cose. Uno, di massimizzare i punti di forza del posto dove vado a lavorare, quindi dove c'è talento, di svilupparlo, di lavorare per massimizzare proprio le qualità. E l'altro, lavorare sui difetti e lavorare sui punti deboli. Credo che l'area nella quale si faccia più differenza e si passi da squadra normale a squadra vincente è proprio nel sapere capire quali sono i propri limiti, i propri difetti e lavorare sui propri errori. Quindi sto guardando con molta umiltà quello che noi possiamo migliorare come Roma e poi quindi conseguentemente quello che si potrebbe migliorare anche nel mondo del calcio in generale, senza retorica, cercando di essere pratici, pragmatici e cercando di dire effettivamente di provare a fare cose che si possono fare realmente. Ecco, perché una cosa che io vedo spesso è che si parla di fare tanti cambiamenti, tutti vogliono cambiare, ma poi in realtà si fa come nel film Il Gattopardo, che tutti vogliono cambiare per rimanere uguali. Ecco, invece tre punti in agenda che Giampaolo Montali si permette umilmente di suggerire al nostro calcio. Una cosa che dico che bisognerà avere il coraggio di cambiare veramente, mettersi intorno a un tavolo, le persone che sono deputate hanno la responsabilità oggettiva di queste discipline e provare a fare dei cambiamenti veramente importanti, cioè avere il coraggio di cambiare. E beh, insomma, si è cominciato a farlo con questo Quo Vadis Football e anche, diciamo, con il contributo di Giampaolo Montali, con le sue riflessioni e soprattutto con un occhio che è capace magari di guardare il calcio in altro modo rispetto a chi in questo ambiente comunque è nato e cresciuto. Allora, in bocca al lupo a Giampaolo Montali per la sua carriera, per la sua Roma e grazie di essere stato ospite di A Bordo Campo. Grazie a voi, arrivederci. A Bordo Campo. Ecco, buono l'avvio, parte più svelto Wells nei confronti di Mennea che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta per lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea, è al comando attualmente l'inglese, poi si distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, recupera, ha vinto! Era il 28 luglio 1980, finale dei 200 metri, Olimpiadi di Mosca, Pietro Mennea vinceva l'oro, un oro straordinario proprio perché la vigilia era stata travagliata, la vigilia di quei giochi, di quella gara. Ebbene, Pietro Mennea si confermava il velocista più forte del mondo. Un'emozione straordinaria, vero Pietro Mennea? E grazie di essere ospite intanto di A Bordo Campo. Io l'anno precedente avevo battuto il record del mondo, quindi mi presentavo a Mosca come favorito sulla distanza, però si sono verificati dei fatti un po' particolari e strani per il movimento olimpico. Noi l'Italia fino all'ultimo non sapeva se mandare una squadra oppure no, alla fine ci fu un compromesso tra il movimento sportivo olimpico e il governo italiano. Non mandò il governo italiano gli atleti militari, mandò gli atleti che militavano nelle squadre civili. Quindi all'ultimo momento noi abbiamo saputo di andare ai giochi. Esattamente, perché nel 1979, lo ricordiamo, c'era stata l'invasione sovietica dell'Afghanistan e ben 60 paesi, Stati Uniti e Germania Ovest su tutti, disertarono Mosca nel segno del boicottaggio. Come ricordava Pietro Mennea, l'Italia trovò una situazione di compromesso. Atleti militari a casa e gli altri in gara, ma sotto la bandiera del CONI. Oggi Mennea ha deciso di ripercorrere quella vicenda di quell'oro, di quell'Olimpiade, di quel boicottaggio in un libro, L'oro di Mosca, ennesima fatica letteraria di Pietro Mennea, edizioni Delta. Ecco, Mennea, come mai è ritornato a scrivere di quella medaglia a 30 anni da quell'incredibile successo? Perché quest'anno compie 30 anni quell'evento, la medaglia d'oro olimpica, ma ho dedicato il libro agli atleti che non hanno potuto partecipare a quell'evento. Questo libro vuol ricordare quelle Olimpiadi, vuole ricordare le nuove generazioni, vuole raccontare alle nuove generazioni come si arriva a un titolo olimpico. E io racconto tutto in questa pubblicazione. Giorni fa è stato presentato a Roma questo volume, sono arrivati molti atleti che non hanno potuto partecipare a quell'edizione dei Giochi Olimpici. Ecco, ce ne ricorda alcuni, e a me viene in mente uno su tutti, Marcello Guarducci, che in quegli anni e precedentemente dopo è stata una delle bandiere del nostro nuoto, ma furono ben 44 i nostri campioni costretti a casa da quella decisione. Sì, sono arrivati più di 10 atleti tra l'atletica, nuoto e altre discipline, hanno raccontato la loro esperienza, molti di questi atleti hanno smesso con lo sport, hanno intrapreso una vita diversa, molti sono andati in crisi per questa decisione, perché gli è stato privato di un sogno per la partecipazione ai Giochi Olimpici. Naturalmente se l'Italia fosse andata al completo in quell'edizione, in quelle Olimpiadi, il bottino delle medaglie sarebbe stato superiore a quelle alle 15 conquistate. Ecco, quali furono alcuni dei campioni italiani che furono costretti a rinunciare? Gregucci, Arena, Bianchini, Masala, Dalzotto, i fratelli D'Inzeo sono alcuni, ma diciamo la squadra che subì le maggiori defezioni è stata l'Atletica, credo 12-13 atleti su un numero di 44. Però ecco, furono Olimpiadi boicottate, ma non furono Olimpiadi dimezzate dal punto di vista agonistico, perché in quell'edizione dei Giochi Olimpici vennero battuti 7 record del mondo, furono battuti 103 record olimpici. Pensate che i Giochi Olimpici successivi a Los Angeles venne battuto nell'atletica solo un record del mondo, nella 4%, che schierava un certo Carl Lewis. Quindi attenzione a parlare di Olimpiadi boicottate, ma ci furono Olimpiadi vere dove si verificarono questi risultati agonistici. Ecco, ci racconta un po' l'atmosfera che c'era in squadra alla vigilia di quei giochi, quando ancora questa decisione di compromesso non era stata presa. Come ne parlavate voi atleti, voi che dei giochi siete i protagonisti? Guarda, non sapevamo, eravamo nell'incertezza, gareggiavamo non avendo la sicurezza di andare all'Olimpiadi, e quindi difatti gli allenamenti, le competizioni, io non feci grandi prestazioni, grandi tempi sui 200 metri, sui 100 metri prima di arrivare a Mosca, perché dal punto di vista psicologico, dal punto di vista umano, c'era questa incertezza, ma anche per gli altri, e quindi tu non sapevi fino alla fine se andare oppure no. Eravamo nelle mani di una decisione politica che poi fu una decisione inutile, perché 30 anni dopo sono stati gli Stati Uniti ad andare in Afghanistan. Alle volte si utilizza lo sport si strumentalizza lo sport per dei fatti, delle decisioni i cui problemi bisogna trovare le soluzioni in altri luoghi, in altri eventi, ma non sempre utilizzare lo sport. Lì sbagliò sicuramente all'epoca Jim Carter, che guidava l'amministrazione americana, difatti ripiegò, perché ci fu un evento di geopolitica, l'America fu costretta ad andare a liberare 50 americani, e quindi ci fu un blitz militare. In questo blitz militare persero la vita 8 militari, ma poi 90 marine dovettero ripiegare in una situazione un po' deficitaria. Certo, una situazione insomma geopolitica veramente particolare. Le chiedo ancora, signor Mennea, il tema del boicottaggio delle grandi manifestazioni sportive periodicamente ritorna, ce lo ricordiamo alla vigilia delle ultime Olimpiadi di Pechino 2008 per la vicenda tibetana, ce lo ricordiamo anche, e qui parlo del Sudafrica che ospiterà i campionati del mondo. In quel caso invece il boicottaggio sul lungo periodo servì a fiaccare il regime dell'apartheid. Ecco, qual è la morale che se ne trae, insomma? Che il mondo è pieno di problemi, che lo sport non può risolvere tutti questi problemi e che quando si assegnano i giochi olimpici, attenzione, assegnarli a quei paesi che oltre avere un'organizzazione, assicurare l'organizzazione dell'evento sportivo, ma dove sono diciamo sicuri anche e assicurano determinati diritti fondamentali che riguardano i cittadini e la collettività mondiale. Oggi è facile assegnare i giochi olimpici a un paese che si serve poi per fare delle operazioni economiche e commerciali. Invece chi governa il movimento olimpico deve anche guardare che in fondo l'idea olimpica nasce per dei valori che vanno salvaguardati. Oggi invece le Olimpiadi si stanno dimostrando come soprattutto sia un evento prettamente economico e in secondo piano sono posti i valori dell'idea olimpica. Quei 44 campioni della nostra squadra sono stati di fatto dimenticati dalle nostre istituzioni, no? Nel senso che non c'è stato un gesto ufficiale, un atto ufficiale che in qualche modo ha ricordato e anche il sacrificio di questo sogno olimpico sull'altare di questa scelta politica. Alla fine, 30 anni dopo, arriva questo suo libro, che è l'unico di fatto atto ufficiale di compensazione, semmai un dispiacere di quel tipo possa essere mai compensato. Io con tutta onestà devo dire che mi sono trovato in una situazione di imbarazzo, perché quando ho presentato il libro, il volume, ho chiamato alcuni di questi atleti, no? E loro non l'hanno preso in un primo momento, cioè seriamente. Quindi come fa uno a dedicare il libro a noi che da 30 anni a questa parte non ci fila nessuno? E quindi ho dovuto spiegarle che sì, c'è qualcuno che non dimentica, c'è qualcuno, ma non dovrei farlo io come cittadino, come privato, lo dovrebbero fare gli organismi istituzionali. Questi ragazzi non vanno dimenticati perché hanno dato molto allo sport, dal punto di vista sportivo, hanno dato qualcosa al paese, e un segno bisogna darlo a loro, perché in fondo io l'ho fatto con questa pubblicazione, perché lo sport, il mondo sportivo non deve dimenticare, ma soprattutto il nostro paese non deve dimenticare. Ebbene, speriamo che anche queste pagine, lo ricordiamo, L'Oro di Mosca, edizioni Delta, firma Pietro Paolo Mennea, servano a ricordare quegli atleti che sacrificarono il loro sogno olimpico in nome di questa scelta politica, e soprattutto speriamo, signor Mennea, che in qualche modo esorcizzino proprio la paura e il rischio di nuovi boicottaggi, no? Che sport e politica procedano sì parallelamente, ma ognuno seguendo il proprio percorso. Beh, io me lo auguro, io sono un difensore, colui che più di ognuno difende quelli che sono i valori olimpici, ma io soprattutto con questo libro girerò il paese per raccontare e per far sì che non siano dimenticati quei ragazzi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 14:30. Un saluto da Dario Ricci.